di Eclettica. Your construction smells of corruption. Our manipulates to recreate this air to go down saga. Go under my karma. Go under my karma. Thank you. Era il 1998 e uscì questo grande disco in cui era contenuto un pezzo monumentale, quello appena ascoltato all'interno di Eclectica, il disco How to Operate with a Blown Mind per la Skint, il gruppo Low Fidelity All Stars, il pezzo monumentale Battle Flag che vi siete ascoltati in Profumo di Eclectica, che è lo spazio che va a ripescare dalle vecchie playlist di questa trasmissione in modo di far conoscere anche ai nuovi ascoltatori della trasmissione cosa succedeva anni fa su queste frequenze all'interno dello stesso spazio. La puntata di oggi si è aperta con un gruppo che gli ascoltatori di Eclectica hanno iniziato ad apprezzare da circa un anno, i Two Gallants, anche se loro sono presenti sulle scene da più tempo, infatti abbiamo avuto modo di recuperare anche la loro prova precedente. Si parla di un nuovo album per la fine del 2007, so che sono in tanti ad attendere una nuova prova da parte dei Two Gallants, lo sanno anche loro, infatti hanno deciso di pubblicare per Saddle Creek nel mese di giugno, nella prima metà del mese di giugno, un EP contenente 5 canzoni e qua su Rock FM avete avuto la possibilità di ascoltarvi un'anteprima di questo EP. Seems Like Home to Me è il brano che ho trasmesso qualche minuto fa ed ora si ritorna sui Bright Eyes. Death may come invisible, or in a holy wall of fire, in the breath between the markers, on some black 80 mile, from the madness of the government to the vengeance of the sea. Well, everything is eclipsed by the shape of destiny. So love me now. Hell is coming. You kiss my mouth. Hell is here. Little soldier, little insect, you know war, it has no heart. It will kill you in the sunshine, or happily in the dark, where kindness is a card game, or a bent up cigarette, in the trenches, in the hard rain, with a bullet and a bet. He says, help me out. Hell is coming. Could you do it now? Hell is here. See the stem. Roll the soil. Pours in the sky. Yellow. thing I'm planning to take. Join my beloved corps. Sir, to kill, sir! So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face. Sir! You got a war face? Ah! That's a war face! Now let me see your war face! Ah! Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real war face! Ah! You don't scare me! Work on it! Sir, yes, sir! Fai cantare forte il motore, non ti ti viene incontro, tu fai cantare forte il motore, non ti accorgi dello specchietto che si infrange, sì, perché la vita è sempre soltanto una sfida a chi ti sta davanti, davanti. Chissà perché io che cercavo solo una storia appena un po' diversa dalle mie altre, io mi ritrovo adesso in questo inferno Dante. Devo dire che mi piace, sì. Forse la vita è stata soltanto un'attesa di una come te. Adesso siamo fermi e sei a guardi danni, ma siamo innamorati e quindi accetti i baci. Specchietti come questo, dici, ce n'ho quanti ne voglio, un mese è già passato, ma tu non l'hai trovato, l'impatto, l'impatto, l'impatto, l'impatto era forte, il danno, il danno, il danno, il danno fu niente, l'impatto, l'impatto, l'impatto, l'impatto era forte. Il danno, il danno, il danno, il danno fu lieve. Come quando io mi sveglio, esco e poi ritorno e porto caffè e cornetti, e tu mi dici sei uscito, non me ne ero neanche accorta. Mi accingo a raccontare qui l'esperienza che mi accadde di vivere in quella strana notte di Natale. Era il terzo dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale. È passato molto tempo da allora e i giorni e le notti che seguirono a quella serata ci hanno portato miseria e sofferenze. Ma il ricordo di quell'incontro è rimasto sempre vivo nel mio cuore e nella mia mente. Non sono riuscite ad affievolirlo né l'annuncio della distruzione di intere città, né il dubbio e l'angoscia che in quel tempo turbavano gli animi riguardo al futuro dell'umanità, e neppure le immani disgrazie che si abbatterono su di noi con inaudita crudeltà. Ciò che appresi non riguardava la sorte di interi popoli o di continenti, bensì il destino di un solo uomo. Ma il fato può scagliarsi contro un solo uomo con la stessa cieca e inesorabile ferocia con la quale si abbatte sulle sorti di interi popoli. Questo era l'incipit di La sorella di Sandor Mahler. Sleep on a water bed, so I will drown the dreams I've had. Can I sleep cry until I will be warm. I will blow on the mirrors to send melancholy away from my face, and I will, and I will clutch my arms to yours and my hands in yours like a bug embrace. An inch in on me somewhere, huh? Sir, no, sir! Bullshit, it looks to me like the best part of you ran down to cracking your mama's ass and ended up as a brown stain on the mattress. I think you've been cheated. Where in hell are you from anyway, Private? Sir, Texas, sir! Holy dog shit, Texas, only steers and queers come from Texas, Private Cowboy. And you don't much look like a steer to me, so that kind of narrows it down. Do you suck dicks? Sir, no, sir! Are you a Peter Pepper? Sir, no, sir! I'll bet you're the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddamn common courtesy to give him a reach around. I'll be watching you. I don't wanna play with you, and then I'll do my best to run away. I don't wanna stay with you before I lose the faith in my good taste. But I don't mind, yes I'll try to ignore it. It's so kind, your disability to play full court. Yes, I'll do my best to run away. I don't wanna spend my time with David. I'll go to Freddy Nettenor.